23 luglio 1944. Il console tedesco a Firenze, Gerhard Wolff, in compagnia del generale comandante del genio guastatori e di alcuni ufficiali del suo stato maggiore. Gli uomini sono appena scesi dalle macchine. Il sole è obliquo, ancora cocente. Camminano sul lungarno acciaiuoli. Le spallette sputano calore. Il console parla, cercando un tono disteso nella voce, ma è ancora molto turbato. Poco prima c'è stata la consegna della città ai paracadutisti del colonnello Fuchs e lui ha visto le carte topografiche che mostravano le zone di Firenze destinate alla distruzione. Tra queste tutti i ponti sull'Arno. Il console ha chiesto immediatamente di poter accompagnare il generale in una breve visita per Firenze. Il console ama profondamente la città. Il suo amore è più forte di ogni logica o necessità militare. Prima in macchina ha parlato a lungo lasciando trasparire tutta la sua fascinazione per Firenze. Ora indica il ponte a Santa Trinita, commenta la sua linea armoniosa, un felice connubio fra la robusta semplicità del primo rinascimento e la grazia raffinata del manierismo che avanza, dice. Un capolavoro! Il generale appare come infastidito, a caldo e stanco. Forse non gli va di subire questa esibizione colta e appassionata da storico dell'arte. Lui è un militare, sono altre le sue preoccupazioni. Ma il console insiste, quasi categorico nella sua conclusione. La distruzione del ponte a Santa Trinita è inaccettabile. Nella mente della gente resterebbe poi un odio profondo per chi ha compiuto questo misfatto. Lei crede? Il generale è tagliente nella voce, ha un sorriso ironico, ma poi rassicura il console. Almeno il ponte vecchio sarà risparmiato, è il Lieblingsbrücke del Führer, il suo ponte preferito. Per l'amor del cielo, esclama il console, si salvi piuttosto il ponte a Santa Trinita. Il sole e il caldo incombono su tutto, sulle domande e gli interrogativi della gente. Quale sarà l'atteggiamento delle forze armate tedesche, delle SS, dei guastatori nazisti, dei gruppi di fascisti ancora arroccati in città? Ma soprattutto è una domanda quella che tormenta la popolazione. I tedeschi rispetteranno l'impegno di considerare Firenze città aperta? Oppure vorranno opporre l'ultima resistenza fra le vie, le case, le piazze, i monumenti? Tutta la popolazione, anche la più ignara, sente l'incubo di questa tragica prospettiva. Particolarmente preoccupati sono gli uomini del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, i dirigenti politici e i comandanti militari partigiani, che sentono pesare sulle loro spalle la responsabilità tremenda di quest'ora decisiva per le sorti della città. Il 29 di luglio, poi, i fatti subiscono una rapida accelerazione. Sui muri roventi di Firenze appare un manifesto. È l'ordinanza del comando germanico con l'ordine di sfollamento di una vasta zona tra Ponte Vecchio e Ponte a Santa Trinita. Nel diario dell'avvocato Gaetano Casoni, un liberale che si era già molto prodigato per la salvezza della città, si capisce bene l'atmosfera concitata di quei giorni. Quel sabato 29 luglio, l'avvocato Casoni riceve la visita di Monsignor Tirapani, segretario del cardinale Elia Dalla Costa. Il prelato l'informa dell'ordinanza tedesca e subito all'avvocato appare chiaro che i tedeschi intendono far saltare i ponti. L'avvocato si reca dal cardinale. Mi permetto di dire che a mio avviso occorrerebbe fare un estremo tentativo per la salvezza della città. Il cardinale l'ascolta. Casoni suggerisce di riunire per la sera stessa le maggiori autorità di Firenze. Dice: dobbiamo concordare una dichiarazione da consegnare al colonnello Fuchs. Si cerca di ottenere un appuntamento con il colonnello Fuchs. Si dice che sia un uomo duro, difficile, e qualcuno comincia anche a chiedersi per quale ragione la sorte di una città importante come Firenze sia stata messa nelle mani di un semplice colonnello dei paracadutisti. Si fanno vari tentativi al telefono per contattarlo. Alla fine si riesce ad ottenere un appuntamento per le ore 12. Sul volto di tutti per un attimo la tregua di un respiro. Verso mezzogiorno viene registrato un fatto nuovo. Alcuni aeroplani inglesi sorvolano la città e la ricoprono di manifestini. È un messaggio speciale ai cittadini di Firenze del generale Alexander. Gli armati alleate si avvicinano e si invitano i cittadini a cooperare per preservare la città dalla distruzione. Sul volantino si danno generiche istruzioni per preservare i servizi pubblici, per impedire al nemico di far brillare le mine, preservare i servizi pubblici e telefonici. Si prosegue testualmente: rimuovete dalle strade tutti gli ostacoli, barricate o altre ostruzioni. Lasciate libere per il passaggio dei veicoli le vie e le piazze. È vitale per gli alleati che le truppe possano attraversare Firenze senza perdita di tempo per completare la distruzione delle armate tedesche che si ritirano verso il nord. Firenze è vostra. Il vostro compito è quello di salvare la città. Il nostro è la distruzione del nemico. Il messaggio turba profondamente l'avvocato Casoni, che si ricorda di aver sentito per radio la lettura di un'identica comunicazione lanciata ai cittadini di Roma il 4 giugno, poco prima dell'ingresso delle truppe alleate. Annota sul diario: allora i tedeschi si ritirarono da Roma senza far saltare i ponti e gli alleati raggiunsero le retroguardie tedesche al di là del ponte Milvio e inflissero una rotta parziale all'esercito del generale Kösterling. Lui sa che Kösterling ha detto più volte che a Firenze non ripeterà l'errore di Roma. Finalmente le 12. Si salgono le scale che portano agli uffici del comando tedesco. Il colonnello Fuchs è appena arrivato. Prego. Il colonnello Fuchs è piuttosto alto, quadrato, non deve avere 50 anni, appare piuttosto controllato, quasi disponibile. Ma da ogni suo gesto, da ogni sua parola si capisce che ha poco tempo, molto caldo e che forse ha dovuto interrompere una riunione molto importante. Il cardinale gli parla brevemente esponendo lo scopo della visita. Le sue parole vengono tradotte in tedesco o da Monsignor Tirapani o dal barone von Munchausen, suo ufficiale d'ordinanza nato a Firenze. Quando usciamo siamo tutti profondamente preoccupati. Con Poggi faccio un giro per le vie del centro della città. Lo spettacolo è veramente impressionante. Le strade sono piene di persone di ogni sesso, età, ceto, che cariche di valigie o fagotti, o spingendo baroccini a mano o trascinando carretti, si allontanano dalle zone che chiamerò proibite. Tutto si svolge frettolosamente, perché il tempo concesso per lo sfollamento è minimo. Dio voglia che la nostra città non rimanga preda del barbaro cui abbiamo ora affidato le nostre ultime speranze. L'armata anglo-americana si va avvicinando a Firenze, ma il cannoneggiamento alleato ha interrotto in più punti la linea ad alta tensione. E da questa notte, 30 luglio, Firenze sarà al buio. E quello che è peggio, una volta finite le scorte per la mancanza di energia elettrica, anche l'acqua verrà a mancare. Sole, caldo insopportabile, afa, polvere, continuano anche nei giorni seguenti. Siamo arrivati alla data fatidica del 3 di agosto 1944. Ugo Cappelletti ci fa il diario di quel giorno terribile nel suo Firenze, città aperta. 3 ore di tempo e poi tutto sarà verbote. Lo ha deciso il comando tedesco facendo affiggere alle 14 di oggi i manifesti con i quali si proclama lo stato di emergenza. È proibito a chiunque di lasciare le case e camminare per le strade e le piazze. Le finestre e le porte delle abitazioni devono rimanere chiuse notte e giorno. La popolazione può trattenersi nelle cantine e, se queste mancano, andare nelle chiese o in altri grandi edifici. Le pattuglie tedesche, spiega il manifesto, hanno l'ordine di sparare contro chiunque si trovi per le vie o si mostri alla finestra. La voce si propaga rapidamente. Gli increduli corrono agli angoli delle strade per leggere con i propri occhi l'ordinanza del comando germanico. Alle 17 tutti devono riserrarsi nelle proprie case ad aspettare gli eventi. Non c'è un minuto da perdere, 3 ore di tempo per pensare a 1000 cose, le più importanti. Le voci si susseguono, disperate, angosciate, ansia, incertezza, paura. 3 ore soltanto per pensare a troppe cose. Poi alle 17 sarà il grande silenzio. Afa, sole, strade vuote, finestre chiuse, porte sbarrate. Loro, i tedeschi e i fascisti, sono fuori di guardia. Mitra imbracciato e dito sul grilletto. Tutto è verbote. Si può soltanto respirare. Sole, polvere, caldo insopportabile. ma la città, che sembrava esausta, schiacciata dall'orrore di tante stragi, mostra ora una vitalità nuova. Nessuno è più nelle fabbriche, negli uffici. Gli impiegati, gli artigiani, gli operai entrano nelle squadre d'azione partigiana. Sono uomini, donne che fanno della loro esperienza e dei loro arnesi armi per preparare chiodi, confezionare bottiglie esplosive, tagliare comunicazioni. Tutta Firenze ha un volto di guerra. Le stradine, i vicoli, i chiostri rigurgitano di uomini della resistenza. Malgrado il sole, la polvere, il caldo, c'è un movimento convulso, sotterraneo, che testimonia la volontà, lo spirito indomito di una città che si prepara ad insorgere. Alla memoria storica di quel giorno noi alterneremo una vicenda che nasce da una memoria più confusa e popolare. La piccola odissea di una donna qualunque, che noi chiameremo Gina, ma che potrebbe avere qualunque altro nome che ci viene in mente. Le candele, Gina! Tu sei rimasta senza candele! E prima che entri in vigore lo stato di emergenza, Gina Campol mi deve trovare le candele, quelle che aveva là finite, perché è qualche giorno che a Firenze manca la luce. E lei? Senza candele non può restare. La Gina ha paura del buio. Il buio gli fa più paura dei tedeschi, delle cannonate, dei morti, più d'ogni cosa. Il buio gli leva le forze. Se la Gina resta al buio, anche ora che ha quasi 50 anni, diventa come una bambina. Si mette subito seduta, canticchia qualcosa, sembra tranquilla, invece il terrore. Se uno la chiama, lei non risponde. Il buio la vuota dentro. No, no, no, no, no, no, no, prima di tutto le candele. Alla Gina gli basta scendere un attimo sotto casa. All'angolo con via dello Sprone c'è il Roccia che vende le candele. Non ha neanche bisogno di chiudere la porta, perché tanto Lelide, la sua mamma, dorme. Da quando Roberto, il suo marito, è andato con i partigiani, sono rimaste loro due sole in casa. La Gina non si dava pace. Partigiano, ma dove tu vai? Sono tutti ragazzi. Non importa, vuol dire gli farò da nonno. Non c'è stato verso di fermarlo. L'anno prima, poi, era morto il suo babbo all'improvviso mentre faceva un po' d'orto sul greto dell'Arno. Dopo un mese, la mamma della Gina, Lelide, ha cominciato ad andare fuori di testa. La mattina si svegliava e raccontava che il marito la notte andava a trovarla per toccarla sotto. Voleva fare quelle cose. E lei si vergognava, perché a 75 anni gli sembrava una cosa brutta. Ma lui insisteva. E ora lei credeva di essere rimasta incinta. Così tutte le mattine. Gina! Gina! Che c'è? Prendimi il prezzemolo! Tanto, ma tanto! Voleva farsi l'infuso di prezzemolo per abortire. Si era fissata. Con la sua mamma partita di cervello in quel modo, per la Gina la guerra diventava ancora più guerra. Comunque pochi discorsi. Gina, muoviti e trova queste due candele. La Gina scese le scale a corsa. Nell'andito trovò il carbonaio che saliva e gli disse: Gina, per le strade c'è agitazione. E fa un sarto qui sotto a pigliare due candele dai Roccia. L'ha finita. Io ho sentito tutti nei dintorni, l'ho trovate dai Casamonti, Piazza Tasso. Piazza Tasso? E che è un po' lontanino, ma io senza candele un cinesto, eh! Oh Gina, rammentatene! E sembra che oggi gli anticipi il coprifuoco e gli è capace che verso le 5. Oddio, Monino Bruno, e non è neanche mezzogiorno. In mezz'ora va e torno, da Piazza Tasso, e poi sia. In tutte le cronache di quel giorno terribile a Firenze si capisce bene come le ore che hanno preceduto lo stato di emergenza siano state caratterizzate dalla consapevolezza di tutti di essere arrivati al primo atto di un dramma infame. L'ordinanza germanica ha messo in difficoltà il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale. Lo stato di emergenza rende più difficili i contatti con i comandi militari partigiani. Per questo bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. E i membri del comitato decidono di rimanere riuniti in permanenza fino al momento in cui scatterà l'insurrezione. Prima che scada il termine fissato dai tedeschi, i componenti del comitato raggiungono l'ufficio di Natale Dall'Oppio in via Condotta 8. In queste stanze si ritrovano Enzo Enriquez Agnoletti per il Partito d'Azione, Giuseppe Rossi per il Partito Comunista, Mario Augusto Martini per la Democrazia Cristiana, Foscolo Lombardi e Natale Dall'Oppio per il Partito Socialista, Aldo Brando, Medici, Tornaquinci per il Partito Liberale. Su questi sei uomini peseranno da ora grosse responsabilità. Il momento a cui si sono preparati in tanti mesi di lotta clandestina è finalmente giunto e non sono ammessi errori, incertezze. La vita di tante persone dipende da ciò che loro si apprestano a decidere. Poche ore prima o poche ore dopo, in piazza Tasso alla Gina gli dissero: Candele, signora, avvenne, se la conosce un prete, forse. Un prete? La Gina si ricordò che il sacrestano di Santa Trinità d'origine era di Cervaia, di suo paese. Non ci stette tanto a pensare. Santa Trinità, figlio via di Leone, San Frediano, Ponte alla Carraia, Piazza Goldoni, via di Parione, e che ci vuole, ci sono. Stia attenta, signora, perché per le strade c'è tanta confusione. Avevano ragione. Per le strade era tutto un correre, uno sbaluginare di facce impaurite, e poi qui sole. Sul ponte alla Carraia la Gina si sentì persa, gli presero tutti i pensieri. Oddio, la mamma la mise svegliata. La scende le scale. La sente caldo e la si spoglia. Me la ritrovo nuda a mezzo alla strada. La si sveglia alla fame e la m'accende qualcosa. La mi brucia la casa. Il sole lampeggiava sull'acqua, riverberava sulle pietre e lei aveva una gran sete. Insomma, per farla breve tra un pensiero e un altro, la Gina si ritrovò dall'altra parte del ponte e poco dopo era in via del Parione. In casa di Sacrestano c'era una gran confusione. Un giovanotto, il nipote, li strignucchiava a sedere su una sedia. Il Sacrestano dava certi azzotti alle pareti e la sua moglie, di spalle all'acquaio, con l'asciughino sembrava la scacciasse le mosche. Maiale, sudicio, poco buono, imbecille! Il giovanotto, un nipote dell'impruneta che portava il vino a Firenze, s'era preso una cotta per una di quelle, una d'un casino lì vicino. Aveva deciso la sera prima di passare un paio d'ore assieme. Per il suo babbo aveva già pronta la scusa. Babbo, fino a una certa ora non ci hanno fatto transitare questi schifosi di tedeschi. E ho fatto tardi. Insomma, era tutto calcolato. Tutto calcolato, si fa per dire, perché gli aveva requisiti cavallo e calesse. I tedeschi ormai rubavano ogni bene. Il ragazzo la notte aveva cercato, sì, di rimediare qualcosa, ma poi la mattina disperato si era arreso. E ora il zio Sacrestano smadonnava a bassa voce e la sua moglie non si capacitava. Maiale, sudicio, sudicio più della troie! Prima il ragazzo si era lasciato scappare che la trentina, quella del casino, gli pettinava il pelo co' denti. Gli era scappata così, per dire, come una cosa buffa, un gioco. Il pettine co' denti, verciava la zia con la bocca schifata come fosse rimasto a lei un vogolo di pelo fra i denti. Il pettine, sudicio, maiale più delle troie, e giù la brate con l'asciugamano. Ai, zia, così mi collo che mi fa male. Il cavallo, il calesse, ora che mi dia a casa. Imbecille, ti sta bene? Sono stato ragazza anch'io, e che vuol dire? A Porta Romana c'era una di Poppi, la si levava denti, la te lo pigliava in bocca e ti faceva un guanto con il rifrullo, quasi gratis. Tu godei e tu spendei poco. No, i pettine o denti, te ti indoglie il godimento, ritardato sti, ma con il cervello, tu ci hai messo il calese e il cavallo. Ora che gli inventa a casa? E che gli dia il mio babbo, zio? Che ti grazie! ha preso piantone. Ora spandi quelli con di per casa, brutto sudice. Che gli racconto? Bene. Gli sta bene ai tuo babbo. Ha dato troppo spazio. Se lo metto. Cattivo sti, con tutti i morti avete avuto l'imprudenza, lui pensa alle droghe. L'hanno bombardata anche la chiesa. In una briciola di silenzio, la Gina chiese se ci avevano le candele e il sacrestano rispose brusco: Gina, ora non è il momento, aspettami giù che tra un poco scendo. Nel frattempo anche il comando militare partigiano ha una sua sede. È negli uffici della società Larderello, in piazza Strozzi 2, poco lontano quindi da via Condotta. Due stanze piccole, soffocanti. Un tavolo, poche sedie e una macchina da scrivere. Sul muro c'è una lavagna. In alto, a destra, qualcuno ha disegnato un ombrello aperto, stilizzato, così, senza un'apparente ragione. Forse l'auspicio per il refrigerio della pioggia o forse un riparo dalla canicola che da settimane va opprimendo Firenze. Nessuno cancellerà quel disegno. Soltanto a liberazione avvenuta qualcuno lo spolvererà via con un giro frettoloso di cimosa. La sicurezza del comando è garantita da un sistema di sentinelle. C'è un ragazzo, una staffetta, un uomo ad ogni angolo della piazza, ad ogni imbocco delle vie d'accesso. Fanno parte del comitato uomini di tutte le componenti politiche della resistenza. Il comandante è il colonnello di complemento Nello Niccoli, del Partito d'Azione. Il vicecomandante è il capitano Nereo Tommasi, della Democrazia Cristiana. Il commissario politico incaricato di rappresentare il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale è Luigi Gaiani, comunista. Il vicecommissario politico, il capitano di complemento Dino Del Poggetto del Partito Socialista. Il capo di Stato Maggiore è il maggiore Achille Mazzi del Partito Liberale. Gaiani e Tommasi vengono immediatamente distaccati nel punto di osservazione sopra la cupola del Duomo. Riescono ad entrare nella cattedrale prima che nelle strade sia proibito il transito. Dall'assù loro possono vedere tutto quello che succede di là d'Arno fino a Porta Romana e anche oltre. In questura si è installata la commissione di controllo del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e anche i sottocomitati rionali sono tutti operativi. In Oltrarno, una delegazione presieduta dall'avvocato Francesco Berti dispone picchetti di partigiani a guardia degli ingressi di Palazzo Pitti e del giardino di Boboli pieni di sfollati. Un'altra delegazione, presieduta dal professor Edoardo Maturo, assume il governo dei rioni delle cure e della vittoria. Intanto, nel rione di Santa Maria Novella, la Gina scese da casa del sacrestano e subito fu travolta da un gruppetto di gente. Via! Via! Via, signora! Sparano! Non si faccia trovare per strada! Aspetto una persona! La mi deve dare le candele! Sparano! Sparano! Correte! Sparavano in Porta Rossa. Si sentivano le camionette avvicinarsi, stum, put, pum, pum, pum. La Gina allora si mise a correre in dove correva la gente. Via! Tutti nei portali sparano! Appena trovo una chiesa, entro dentro. Lo dicano anche di ripararsi nelle chiese. Alle brutte, già che ci sono, lo sai che fa. Rubo le candele all'altar maggiore. Mi dispiace, signore, ma io ai buio non ci posso restare. Se proprio, proprio tu mi vuoi lasciare ai buio, fammi morire, preferisco! Erano discorsi fatti così, per disperazione, si capisce. La Gina si calma, si ferma un attimo a ripigliare il fiato. In mezzo alla strada c'è un carretto arrovesciato con due damigiane, da una sgarganellava l'acqua sul selciato. La Gina si china a bere. Avevo proprio sete, però tutta quest'acqua sprecata, che peccato! La Gina infila via del Purgatorio e dalla parte senza sbocco. Torna indietro, prende via della Vignanova, via dei Palchetti, via di Moro e... A te? Giovanna! Gina! Gina! Gina! Giovanna, ma che ci fai a Firenze? Siamo sfollati! Siamo sfollati! arrivati a Cervaia non si viveva. Ah. Che fai, Gina? Volevo vedere di trovare due candele. Vieni con me! Ma c'ho le candele. Ho tanta paura, Gina. Ah. Non riesco più a tornare a casa. Con tutte queste strade mi son persa, Gina, mi son persa. Non piangere, Giovanna, ah. Via. Da chi tu sei? Da Virgilio, in via Pisana. Via Pisana? Chiama e rispondi. Sta qui vicina, Gina, non mi lasciare. Vieni con me. Giovanna, ho lasciato la mia mamma da sola in casa. Ah, la tua mamma, come sta? Lei bene, di testa una bambina uguale. Giovanna, non mi lasciare, Gina, non mi lasciare. Giovanna, io devo vedere di trovare due candele. E ce ne sei in borsa, te ne do tre. Ma accompagnami almeno fino al Ponte alla Vittoria, poi da lì sto tranquilla, mi dà capezzo. Fino al Ponte alla Vittoria, sì. E poi però tu mi dà le candele. Sì. Oh, andiamo, vai, su. In quel preciso momento, un ufficiale fascista di un reparto della birra El Gobi, che chiameremo il federale, scende con un camerata verso il centro della città. Ha mostrato il lasciapassare e ora da piazza Cavour si avvia verso il centro. Gli ordini che ha ricevuto sono stati chiari. Unirsi al grosso delle truppe tedesche che si stanno ritirando verso nord. Ha già concluso il compito che gli è stato affidato. Ripulire le caserme da ogni genere di armi, ha rastrellato tutto quello che c'era da prendere, mortai, mitragliatrici, fucili, munizioni. Dove siamo passati noi, dice, non è rimasto nulla. Gli altri gerarchi se ne sono già andati da Firenze in compagnia di Pavolini, con le macchine messe a disposizione dalla prefettura. Ma lui ha rifiutato l'automobile. Non gli va di partire, di lasciare Firenze, la moglie, il bambino piccolo. Io rimango. Non mi vado ad andare via. Il federale, anche se non ha aderito alla Repubblica Sociale, è sempre più fascista convinto. Per principio non vuole lasciare Firenze. Gli sembrerebbe quasi di scappare. E poi perché? Ho fatto qualcosa di male io? No. E allora rimango. Il camerata lo guarda, non dice niente. Si conoscono fin da ragazzi. Lo sa che ha voglia di sfogarsi. L'ascolta, mentre si incamminano, cercando inutilmente il refrigerio di un po' d'ombra. Intanto Gina e Giovanna vanno sotto il sole cocente, nell'acqua, nell'arsura di un giorno maledetto, tutte e due impaurite per via Palazzolo. A Porta al Prato c'è un posto di blocco, non si passa, tornano indietro. In via Magenta la Giovanna ha uno strizzone di pancia. Ai, i piselli! I piselli secchi, è una settimana in casa non si mangia altro. Siamo stati tutti male, tutti con la sciolta. Riparami perché io la devo fare. Guarda che siamo a Firenze, non sei più a Cervaia. Ma troviamo un portone aperto con la porta, muoio. Svoltano in via Solferino. Angolo via Garibaldi, c'è un portone aperto. È venuto giù un tetto, dentro tutto un mucchio di roba franata. Un posto protetto. Vai Giovanna, falla. Sta sulla porta, guarda se gli scende qualcuno. Svelta! La Giovanna scarica come un fognone nell'ombra pestilenziale dell'androne. Che vergogna! Sta sulle gambe, sulle scarpe, Giovannina, non ci badare. Sulle gambe. Dai, non ci badare, dai, tieni. Che vergogna, sulle gambe. Giovanna, bisogna arrivare al Ponte alla Vittoria. Dai, su. Gina e Giovanna finalmente sono arrivate nei pressi del Ponte alla Vittoria. Grazie, Gina. Grazie. E da qui mi raccapezzo, eh? Mi dispiace per prima. Che figura. Tutto sulle gambe, sulle scarpe, figura. Che attraverso con te. Magari, se non ti scomodo. No, poi prendo via della fonderia, fai Lungarno Santa Rosa, Lungarno Soderini, hai Torrino Taglio, entro un Sanfrediano, poi di lì sono a casa, sai, Giovanna, sono a casa anch'io, eh? e poi guarda, sul ponte alla Vittoria. Non c'è nessuno. Davvero? Nessuno? È un'apparenza. La Giovanna comincia a correre, la Gina gli va dietro. Indovandate, crulle! Gli dicono degli uomini appostati sotto gli alberi prima che cominci le cascine. Non si può! Entrate in vigore il coprifuoco! I tedeschi sparano! Oddio, tedeschi! Oddio. Gina e Giovanna si fermano, sono a metà del ponte, si prendono per mano. Loro sono state bambine assieme. A Cerbaia, dove abitavano, c'era un uomo lupo che con la luna piena dava noia alle bambine. Tante volte la Gina e la Giovanna gli son passate davanti casa tenendosi per mano dritte imperterrite. E ora uguale. Vanno affiancate silenziose sul ponte alla Vittoria. Sembrano diventate tutte e due trasparenti. Appena passati il ponte cominciano a sparare. La Gina dovrebbe andare a sinistra, ma per la paura va dietro alla Giovanna. Entrano in via di Pignone, pochi passi e si addossano all'argine. Non capiscono da dove vengano tutti quegli spari. Vedano una motocicletta sbandare sulla piazza. Dentro il sidecar un uomo urla: «Fatemi uscire! Fatemi uscire!» Ha un valigione sullo stomaco, è rimasto incastrato. Non esce, non c'è il guidatore. La motocicletta si rovescia, gira sull'asfalto come un trottolone sfratto. Venite! Venite qua! Venite qua! Gli fanno cenno delle persone al di là della strada. Sono tutte ammassate in un garage. Gina e Giovanna le raggiungono. Giusto un tempo, perché cominciano subito a sparare. A dire il vero, si sente anche il cannone. Bombardano! Bombardano giù! Andiamo giù, è più riparato! Scendono in un buco di scantinato. È quasi buio. La Gina trema, con le mani cerca subito le tre candele che gli ha dato la Giovanna. Una si è rotta a metà. Non importa, si può sempre accendere, Gina. Gina e Giovanna hanno perso la cognizione del tempo. Ultimamente la Gina non è mai stata così tanto in compagnia. Sempre lei e la sua mamma da soli. A parte l'ansia di tornare a casa, la Gina lì stretta in mezzo alla gente in quel modo ci starebbe anche bene. Ascolta. Qualcuno chiacchiera, dice che ormai i ponti gli faranno saltare. È questione di ore, se non è oggi gli è domani, gli alleati coi cingoli si ponti non ce li fanno transitare. Una donna attacca a urlare. E quello accanto, che pareva una ragazza brutta, si mette a berciare. Anna! Anna, amore, proprio ora tu me lo dovevi fare! E allora si capisce subito che quella brutta chiona cespugliosa è il marito e si è vestito da Befanone per non farsi prendere dai tedeschi e per restare vicino alla sua donna. Si leva il fazzoletto, si sbottona la veste nera e torna subito un bel giovanotto. Anna, amore, e mi lasci il mio figliolo e come mi vede, eh? Bisogna portarla su in casa, qui non può partorire, dice una donna e deve essere una sua parente. Tutte le donne vanno su in casa, tutte impaurite, a mezze scale si fermano, si bombardano, si muore. Per un attimo non si sentono più all'altezza di far nascere. Forse è un dubbio di vivere, o forse solo stanchezza. Anna è brava, si trattiene, non dà in escandescenze. Quando può sorride, dice che gli basta bere. Il sudore l'ha fatta umida, liscia e argentata come un pesce, un lumacone di notte. Fuori hanno smesso di cannoneggiare, ma sono già arrivate le voci. Morti in via Pisana, 1, 2, 10. Sono cifre che la paura fa lievitare. Anna partorisce. Una bambina. Sono le 7 di sera. Fuori l'aria è ancora più rovente. In casa si festeggia. Gina e Giovanna sono preoccupate, ma bevono mezzo bicchiere di vin santo. Si lasciano andare. Per un secondo a tutte e due gli sembra che il mondo sia tornato vivibile, potabile, normale. Gina! Io e dovrei andare, eh? Dice la Giovanna che nel frattempo è già andata 3 o 4 volte in bagno. Signora, l'accompagno io, si propone un uomo. Ce li ho anch'io parenti in via Pisana. Voglio sentire come gli stanno, tanto io son come solo se mi succede qualcosa. Ma di poco, andiamo. Anche la Gina scende con loro. Resta a dormire da noi, dice la Giovanna. Sarebbe meglio, ribadisce l'uomo che deve essere uno della misericordia. Non posso, c'ho la mia mamma da sola in casa. La Gina quasi urla. I rondoni volan bassi fanno certi strilli che sembrano mangiare le parole in bocca. Gina e Giovanna si abbracciano strette, strette, poi via. Una a destra e una a sinistra. Dalle 17 tutti chiusi nelle case. Una camionetta della Kommandantur gira per le strade con l'altoparlante. Verboten! Verboten! Pattuglie di militari tedeschi perlustrano le strade, sparano sventagliate di mitra. Vogliono far capire che non sopportano che siano trasgrediti gli ordini del loro comando. Nell'ombra del tramonto la Gina cammina lungo i muri verso San Frediano. È stanca, spossata, ha sete. Ogni tanto si guarda intorno. Ma dov'è finita la gente? La Gina vede qualche cane, un gatto. Un piccione si alza in volo all'improvviso, gli fa paura. All'angolo con Via del Leone, un vecchio e una ragazza spingono una carrozzina con una rotina che traballa. La ragazza è la fame, lunga, lunga, secca, spiritata. Il vecchio è la rassegnazione, curvo in canottiera con un cappello floscio 2 misure più grande. Nella carrozzina fiaschi d'acqua e un cartoccio di carta gialla con qualcosa di unto dentro. Sono appostati. Aspettano di attraversare. La ragazza si gratta i ginocchi, il vecchio si sporge e lei subito lo offende. Fatti vedere, imbecille! Il vecchio gentile fa cenno alla Gina di fermarsi. Stia attenta, signora, perché tirano. Ma io devo tornare a casa. E ci vuole un poco di pazienza. Fra poco gli smettano, si spostano. E lo so, è tanto gli studio. La ragazza si gratta i capelli cresposi, la voce è stizzosa. Lui! Ma ha messo lui in questa situazione! Piange. Il vecchio sorride, alza le spalle. La colpa è mia. Egli è vero, lo so, però è anche tanto permalosa di suo. La ragazza scuote la carrozzina. Questa è di quando ero piccina! Il vecchio la ferma. Leandra, cosa voi gli importa alla signora? La Gina non capisce, ascolta gli echi degli spari. Sembrano più lontani. Il vecchio dice che ora si può passare. Signora, ora! Ora guardano dall'altra parte. Fame e sopportazione attraversano la strada. La Gina taglia l'angolo veloce. Signora, più avanti. C'è un morto, non lo guardi se gli fa impressione. Grazie, signore. Via, via, via, via! No, via, via. Intanto, poco più a sud della città, a Montemurlo, a Montemasso, a Montisoni, a Fonte Santa si accendono aspri scontri tra le retroguardie germaniche e le pattuglie partigiane. Vicino al bordo di Palazzaccio, un gruppo di 10 tedeschi che cerca di intercettare elementi della nostra Stella Rossa viene atteso a distanza ravvicinata e fulminato dai mitragliatori partigiani. E mentre gli uomini di retroguardia si attardano a sparare contro i tedeschi, altri elementi della brigata Sinigaglia si incontrano con gli avamposti inglesi, con i tommi. E questo è il primo incontro fra i soldati dell'ottava armata e i ragazzi delle formazioni partigiane. Prima l'emozione, la perplessità, poi esplode un sentimento di allegria e di festa. Partigiani italiani e soldati inglesi si abbracciano, fraternizzano, si salutano, cantano. Davanti a tutti avanza la bandiera rossa dell'unità partigiana. Il comandante inglese chiede notizie sulle formazioni tedesche. I comandanti si scambiano le carte geografiche e segnano i punti dove i partigiani ritengano vi siano batterie tedesche. A Firenze la Gina si regge ai muri. Non vede, non sente, ha solo tanta sete. Via dello sprone. Finalmente sono a casa e sono anche viva. Come ho fatto, non si sa, eh. Sale le scale. L'Elide è in piedi sul letto, mezza nuda, col fiasco del vino in mano. Mamma! Gina! Dammi questo fiasco, eh? Ce n'era poco, ma tu l'hai finito. Almeno tu sei stata tranquilla. L'Elide crolla a dormire. La Gina appoggia le candele sul comodino e si attacca a una bottiglia d'acqua. Beve, beve. Oh vai, ora mi stendo 2 minuti, poi fa una minestrina, un qualcosa, un vento. Abbraccia la sua mamma e subito gli si chiudono gli occhi. Lungo le strade intorno a Ponte Vecchio, i guastatori tedeschi hanno compiuto la loro opera, meticolosi, precisi. Quando verrà il momento, le mine disposte nei giorni precedenti faranno il vuoto. I partigiani sanno che se i ponti saltano, l'avanzata degli alleati sarà in qualche modo ritardata. Bisogna tentare di salvarli, ma occorrerebbe coordinare un'azione dalle due rive. Ed è impossibile, visto che chi si avventura per strada finisce sotto il piombo tedesco. Eppure a sera un tentativo si fa, è solo un gesto audace. Quanto disperato. Al ponte alla vittoria alcuni patrioti dotati di armi automatiche cercano di tagliare i fili che collegano le mine alla stazione di brillamento. I soldati tedeschi se ne accorgono e aprono il fuoco. I partigiani ingaggiano la battaglia, ma i soldati germanici sono troppi. Bisogna ripiegare. Il destino del ponte è segnato. Al ponte alla Carraia i paracadutisti hanno piazzato 4 mitragliatrici e fanno buona guardia. Anche lì si ripete il tentativo. Un plotone di partigiani va all'attacco e distrugge 2 delle 4 postazioni. La reazione del nemico è immediata e violenta. Un secondo plotone di patrioti ritenta l'azione. Il combattimento dura a lungo, ma non c'è niente da fare. Bisogna interrompere. Ai partigiani costa 1 morto e 3 feriti. Il sole è già tramontato. Lontano a sud della città il cannone fa sentire la sua voce. Il comando germanico ha già predisposto dove si attesteranno i paracadutisti per tenere la linea dell'Arno una volta che le mine avranno compiuto le distruzioni. In città il silenzio è come una cappa di piombo. Verso le 22 si percepiscono 30 di esplosioni all'interno della centrale telefonica di Via degli Anselmi. Si vedono le torce dei guastatori spostarsi da una stanza all'altra e poi si odono gli scoppi delle cariche. In breve la centrale è fuori uso. Lungo via Romana, lungo via Maggio, giù da via dei Serragli, i tedeschi si ritirano dall'Oltrarno per attestarsi sulla riva nord del fiume. I cingoli dei tigri sprigionano scintille, lo sferragliare di masse metalliche e poi il passo cadenzato dei soldati. Se ne vanno. Scappano. Allora è vero. Gli inglesi sono vicini. Qualcuno si fa coraggio, spia alla finestra. Qualche tedesco bussa alle porte, chiede dell'acqua da bere. Nessuno gli apre. Un altro sfonda la porta, la pretende. Beve 1, 2, 3, 4 bicchieri. Punta minaccioso il mitra sulla gente, ma gli occhi sono quelli disperati di un assetato. Un altro tedesco entra in un portone. Appena la gente lo vede, lui getta le armi. Alza le mani. Gli inquilini scendono le scale, lo circondano. Qualcuno gli sputa addosso, gli tira un calcio, un cazzotto, gli leva il cappello. Si vede che è un ragazzo, 15-16 anni, piagnucola, sorride, dice che vuole consegnarsi. Si aspetta altre botte. Un ragazzo prende le armi. Un uomo gli dice di lasciarlo stare. Una donna che era rimasta sulle scale comincia a urlare. C'ha l'età di nostro Bruno, loro ce l'hanno ammazzato. E l'uomo stanco gli risponde: appunto. Poi, rivolto agli altri inquilini: se qualcuno lo vuole giustiziare. Ma nessuno se la sente. Questo oramai non lo fa più del male. Lo lasciano da solo nel buio, seduto ad aspettare. Fuori intanto è caduto il silenzio. Dopo tanto urlare, dopo tanto sferragliare, il silenzio. Una calma assoluta, irreale. Quella notte a Firenze successe di tutto. Le mine tedesche fecero saltare Borgo San Jacopo, via Guicciardini, l'angolo di via dei Giudei, Lungarno Acciaioli, Por Santa Maria, i ponti, tutti i ponti di Firenze. La Gina e la sua mamma dormirono sotto una pioggia di calcinacci, nelle raffiche dei vetri esplosi, illuminate dalle vampate dei fuochi, cullate dagli schianti, rombi, gli scoppi, mortaretti. A vederle sembravano morte. La Gina invece sognava che la guerra era finita. Suonavano le campane e l'Arno era tutto pieno di candele accese. C'era una luce, ma una luce... Era bello, da non svegliarsi. Da non svegliarsi. È l'alba del 4 agosto. La polvere delle esplosioni ancora indugia nella città divisa inesorabilmente in due. I ponti sono cumuli di macerie, pietre e calcinacci che sembrano aver risucchiato anche la poca acqua stagnante dell'Arno in secca. Nell'aria è rimasto l'odore del tritolo. I tedeschi hanno studiato da tempo le strutture e la staticità dei ponti. Nella notte, squadre di specialisti balistici hanno lavorato con il furore, con l'accanimento di chi sa di commettere un crimine e ha paura. Appassionato e vibrante l'articolo di Pietro Calamandrei che prende il ponte a Santa Trinita come esempio dello scempio compiuto quel giorno dai tedeschi su Firenze. Lieve, flessuoso, ma quale potenza di solidità statica in quella morbidezza di linee. I guastatori tedeschi ci si dovettero rifare più volte. Gli altri ponti bastò minarli ai piloni, rovinarono al primo scoppio. Il ponte a Santa Trinita no. Alla prima esplosione, che fu sul cader della notte tra il 3 e il 4 agosto, scrollò appena le spalle e restò in piedi. Allora quei manigoldi dovettero ricominciare da capo. Ritentarono invano di far saltare i piloni, poi, fallito ancora il tentativo, lavorarono alla disperata tutta la notte ad avviluppare in una gabbia d'esplosivo l'intera arcata. E solo così, vicino all'alba, riuscirono a farla saltare. Questo affannarsi notturno di ombre spietate contro il ponte che resisteva somiglia ad una scena di tortura. Anche il più bel ponte del mondo, colpevole di aver resistito, fu condannato a perire di morte lenta sotto i supplizi dei torturatori tedeschi. È l'alba del 4 di agosto. Di prima mattina arrivano in Old Arno le avanguardie delle truppe alleate. I partigiani escono dai rifugi, ma dall'altra parte del fiume i tedeschi sono appostati dietro le rovine dei ponti, l'occhio fisso nel mirino dei fucili, dei mitragliatori. Da Piazza Vittorio i mortai non danno tregua alla zona appena liberata, una sassaiola di granate assassine che taglia il respiro. Dai tetti i franchi tiratori fascisti colpiscono chiunque cerchi di attraversare il fiume, chiunque si affacci sui lungari. Passa una settimana. Una settimana di attesa estenuante. Nella zona occupata, i tedeschi e i fascisti continuano la loro opera di distruzione e di saccheggio, come nella sinagoga di Via dei Farini. Mentre sulla zona liberata, gli alleati vorrebbero disarmare i partigiani, perché ne temono l'iniziativa e l'autonomia militare e politica. Ma chi ha combattuto per tanti mesi i tedeschi e i fascisti è deciso a liberare la città, anche senza l'aiuto delle truppe anglo-americane. I patrioti, con un'azione assolutamente audace, riescono a far passare una linea telefonica lungo il corridoio vasariano, sopra Ponte Vecchio, e ora le due sponde dell'Arno si possono parlare. E Carlo Ludovico Ragghianti, che ha assunto il comando del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, fa sapere agli alleati che è intenzione del Comitato dare l'ordine di insurrezione nel momento che riterrà più opportuno e di assumere il governo provvisorio della città. L'8 agosto viene diramato lo stato di allerta. I tedeschi sono pronti a ripiegare dalla zona dell'Arno a quella più a nord, lungo la ferrovia, il Mugnone e la zona di Careggi. È un falso allarme. Si deve ancora aspettare. Il ripiegamento avviene invece nella notte fra il 10 e l'11 d'agosto, e quella mattina alle 6.45 la Martinella e il campanone di Palazzo Vecchio suona a martello. Gli fa eco la campana della Torre del Bargello, rimasta muta dal momento dell'occupazione tedesca 11 mesi prima, e poi tutte le campane di Firenze. I patrioti iniziano una battaglia durissima e difficilissima che si protrarrà fino alla fine di agosto. Acciaio di Tavarnelle Valdipesi, a patriota, era arrivato in Piazza del Carmine alle 5 di mattina. Lui era un garibaldino della Sinigaglia, la brigata partigiana che da Monte San Michele era scesa per prima a Firenze, e anche se lui era uno del contado, in città ci sarà stato 6-7 volte al massimo. Lui voleva entrare e liberarla da quegli assassini che gli avevano ammazzato tanti compagni. Galliano Prunetti, nome di battaglia Lince, infatti non ci vedeva da qui a lì, però una volta inforcati quei due culi di bicchiere che portava per lenti, con il suo moschetto da cavalleria di quell'altra guerra faceva paura, non ne sbagliava uno. Galliano aveva scalciato insieme a tutti i suoi compagni per una settimana intera in attesa dell'ordine di insurrezione e non arrivava. Ma in che credano gli inglesi? Che tedesco e fascista ancora non abbiano fatto il suo uomo. Ma quella era la mattina buona, Appena sentì la campana, Galliano Prunetti si buttò sul Lungarno Soderini, si affacciò alla spalletta e lì, rintanato per non beccarsi un proiettile, si guardò attorno e si mise a piangere. A dirotto. Il ponte a Santa Trinita. Tutto distrutto, rovinato, in Arno, lì davanti agli occhi. Le statue. Nulla. Un cumulo di macerie. Piangeva Galliano Prunetti con il moschetto in mano, come se i tedeschi gli avessero fatto uno sfregio personale. Lui, che s'era visto portar via un fratello da nazisti, fucilare a Pratale sotto Badia a Passignano uno zio e due cugini, lui, e nessuno gli aveva mai visto versare neanche una lacrima, nemmeno di fronte ai lutti più diretti, alle tragedie più grosse, lui piangeva di rabbia, di sconforto dinanzi alle rovine di Ponta Santa Trinita. Piangeva e smadonnava e piangeva brutti pezzi di merda schifosi di tedeschi, ma ripigliassela con punti, con monumenti, brutti figli di una maiala. E una volta passato l'Arno sulla pescaia a Santa Rosa, come tutti gli altri partigiani, E rischiò 3 o 4 volte di essere beccato da Cecchini, sì. Perché mio Pedro Megliera si trovava sempre allo scoperto, a domandare da un cantone a quell'altro a tutti egli e gli stavano rintanati per non farsi beccare. Ma il Duomo l'hanno lasciato ritto, vero? No, e il Davide in Piazza Signoria. Santa Croce un anno fatto d'anno, vero? Insomma, tutti quei monumenti e lui conosceva più di nome che per averli veramente visitati, visti in quel momento, e gli premevano di più della superle stessa. Nel 1953, quando l'angina Pectoris se lo stava portando via, lui gli ansimava più di là che di qua, con gli occhi miopi, che chiedevano tristi la carità di un dolore meno insopportabile, il suo figliolo Mario prese una seggiola, se la portò in fondo al letto e cominciò a raccontargli che il ponte a Santa Trinita l'avevano ritirato su, sì, che era bello come prima più di prima, con tutte le statue e i marmi al posto giusto, e che lui doveva stringere i denti, stare meglio per tornare a rivederlo. Galliano Prunetti non lo rivide, il ponte a Santa Trinita, no, e morì quella notte stessa. Però dice c'aveva un sorriso sulle labbra che la sua moglie non si ricordava di averglielo visto nemmeno il giorno gli erano stati sposi. La battaglia di Firenze infuriò fino al 1° settembre, quando le truppe partigiane entrarono in Fiesole. Solo verso la fine di agosto gli alleati cominciarono a sostituirsi agli uomini della resistenza, dopo averli solamente sostenuti e affiancati. Scrive Pietro Calamandrei, questa fu la battaglia di Firenze, una tappa decisiva e forse un esempio unico nella nostra guerra di liberazione, nel nostro ritorno alla coscienza civile europea. Una battaglia corpo a corpo, durata quasi un mese per le vie di una città, combattuta dal popolo insorto e comandata da un governo insurrezionale di magistrature cittadine che gli alleati, quando giunsero, lasciarono con rispetto ai loro posti di comando saggiamente tenuti. In quel lunghissimo mese i patrioti caduti in combattimento furono 205, i feriti 400, i dispersi 18 e quasi 800 cittadini inermi, in gran parte donne e fanciulli, morirono sotto le granate tedesche e sotto il tiro a segno degli assassini. Dice Carlo Frankovic, protagonista di quei giorni a conclusione del suo bel libro La Resistenza a Firenze. Grazie a loro, grazie ai combattenti, noi potemmo allora guardare in faccia i soldati inglesi senza complessi di colpo.